Oddio a te. Dico, le nostalgie, la vernice, le cose per bene. Le cose se non sono pronte le tagliamo domani. Le cose se non sono pronte, che ci vuole tanto, le tagliamo domani, perché devo andare alle 1:30 a vedere che cazzo è successo. E beh, buon goglio, così. Buon goglio. Ehi, Lu. Ehi, Lu, sta minchia. Che t'è morto. E beh. Quindi sì. Ah, va in cucina, prendimelo un caffè. E il cazzo, io è lungo il caffè. A che a me mi piace lungo, è grosso. Io non odio nessuno, però, cazzo, che dabbè sono gelosi. Perché non mi senti la cucina? Sto usando il camodello è chi? UVS9. Ma cosa cazzo è su V? Ipotacile! Quello che avevi preso ultimamente! E già vi ragionati! UVS9. Ti mando la foto. Ascolta a me, mi hanno risposto, mi hanno detto che per il momento per zona Sassari non c'è nulla, di chiamare ogni giorno fino a quando non c'è qualcosa a Sassari. Cazzo, dimmi tu, ma niente, il gas deve grebar, cazzo, ma grebar deve rivengani. Così, deve chiamare per vedere, sai perché, per vedere se qualcuno disdice. E cazzo, ma devo cambiare già meno, no, Luca? Boh, ma che cazzo di ragionamento è questo? No, almeno una volta a settimana devi chiamare. Almeno una volta a settimana. E allora la chiamare domani, se no devo cambiare i buti che ti trovi da lì alla secca bianca e vedo il gaeda. Ma guarda che molte volte se vai direttamente al CUP, così stanno dicendo, che non è vero, perché tramite il telefono non ti ne dargini. Oppure te ne danno un bel avanti. Dice se vai lì, non è così. Ah, va, dimmi tu ma cosa deve essere così. A che bisogna andare, vedi, con il fucile e parli subito. A chi non ne comprendono un cazzo. Cazzo, vengo in Givi e me lo dai subito l'appuntamento. Mi ti telefoneggi e mi dici non viene fino al 2021. Bobo. Andiamo bene. Per carità, già siamo messi bene, cazzo. Boh. Per quello molta gente va direttamente lì, capito, alla secca bianca o al palazzo rosa. Quello che aveva fatto Gio Maria. Quello ho comprato solo la batteria perché gliela avevano dato con la batteria rotta. Sì, bello, bello anche questo. Bello. Ah, uno me lo voglio prendere. Quanti watt c'è di uscita a questo? Questo sembra 8. Perché se c'è pochi watt non mi serve a nulla, perché da qua, se voglio entrare da qua, che se con quel caldo non mi intende nessuno. Sono in cucina io, e mi intendi, butichi? No, io poi uso solo questi portatilini qua, io non faccio altro con gli occhi. Cazzo, Lu, tu sei nato, io sono in terra, non so come lasciare nell'altezza di 6-2, è per quello che esce anche col portatile in gomma. È vero. In pratica ti dà solo la frequenza quella roba di Lu, non ti fa fare altro. Eia, solo quello che hai visto, capito? Così è una mezza gaggata, era bello se potevi anche trasmettere, capito? Sempre dal PC. Ah, quella è un'altra cosa, quella è un'altra cosa, c'è il programma, però il cavo è diverso, capito? Il cavo è diverso, l'interfaccia è diversa, esistono, capito? Ma non con la radio come c'ho io, capito? Ma come quella con 7000. Ho capito. E vabbè, si abbia le luci. Povero. E quindi a te te l'hanno fatto fare lo stesso quando era dolori? Eia, lo fanno per i muscoli quella visita lì, capito? Per vedere come reagiscono i muscoli ogni volta che loro ti danno quella scossa, così. Vai, mi dice no, non ne posso più di questa visita. Cazzo, le tre zanne danni. Cazzo di anni e ce ne ha bisogno a buco. E polpacci te lo metto, ma se non ti fa male, vai, agito, non ne posso più. ma deve resistere. Atta! E poi aumentava il voltaggio. Attenante! No, adesso vediamo, vediamo un po', se in caso non faccio un cazzo o faccio... Non lo so neanche io. Ti sa cosa intendi che è un elettroshock questa visita? Me non ritimo né visite né aghi, ma chissà, non l'auguro a nessuno. A te, tu come ti vedi tutti chi sa che ti buoni con i fili elettrici svieni? Questo è il ragazzo per il banco, l'infronte dei fili elettrici. Sono anche con i fili, no? Che poi ti danno la corrente ai muscoli e devi resistere perché devono arrivare a una certa scala i risultati, capito? Ma mi lacrimi! Ma detto che non è doloroso, è fastidioso, l'ho detto, ma doloroso è questo trattamento? No, si preoccupi che sarà fastidio. Eia, vai falla, vai. Grazie, io sono venuto da un gallarino, volevo sapere avesse doloroso. E beh, mica ne intendi niente l'odorone, ti devi ogni giorno aumentare la cosa e buio, un poco patrimonio però. E quindi ne hai fatta solo una? Ma non è un trattamento, è una visita quella che hai detto tu, è una visita. Dura, 15-20 minuti. Capito? È una visita però, poi da lì loro ti dicono sì o no, i muscoli stanno reagendo bene perché giustamente dalla colonna vertebrale eccetera eccetera sono collegati i muscoli e loro da lì vogliono vedere se la tua schiena sta provocando problemi ai muscoli anche, capito? Ecco perché ti fanno questa visita, ma è una visita, poi da lì ti danno il responso e boh, basta. Ti danno il responso e poi lo devi dare all'altro, al medico, quello che mi ha visitato oggi, così è? Esatto, al tuo medico di famiglia. Il medico di famiglia ti dice, ok, i muscoli sono a posto. Piacere tu di alla vega. No, non hai capito. Lui, il dottor, come ti cazzo di giama, che ha guardato stamattina, che mi ha fatto l'impegnativa, mi ha detto con questo qua devi prenotare il cupo, poi con questo quando la chiamano per fare questa visita qua, poi devi venire e tornare a me con quel certificato che mi rilasciano, l'impegnativa. Ehi, perché vuole vedere se la schiena sta dando problemi ai muscoli, mica è una terapia che sarà che ti faccio, ne dura poco. E poi il responso la dottoressa lo scrive nel foglio e tu il foglio poi lo porti al dottore. Il tuo dottore ti dice, ok, i muscoli stanno reagendo bene all'elettromiografia e non c'hanno niente. Ecco cosa ti dici. Il problema è ancora nella schiena e bisogna risolvere da lì. Allora, il foglio mi ha fatto questo foglio qua, capiamoci bene lui. Mi ha fatto un altro foglio lui, con tutte le cose che ha visto nel dischetto, e gli devo portare questo foglio qui al dottore domani. In pratica io sto dicendo, quando lo faccio quella visita lì, io non lo devo portare al mio dottore, lo devo portare a questo che mi ha fatto la visita oggi, questo foglio, l'impegnativa, capito? Sì, ho capito, ma se l'elettromiografia rileva che è tutto a posto, capito? Ed è, ti sto dicendo, io l'ho fatta ed è dolorosissima, per poi scrivermi nel coso che era tutto a posto, capito? Loro vogliono vedere se sta compromettendo i muscoli e quelle robe lì, ecco perché stai facendo quest'altra visita, magari poi ti dà dopo di questa, non vedo niente, ti fanno fare un attacco, badi, una risonanza, e non fini più, è tutto così, si sa, no? Che cazzo, beh. Mica non è detto che abbia, se tu non hai problemi ai muscoli, se non ti vengono crampi giornalieri, se non hai problemi, se non cadi, tutte queste robe qua, i muscoli sono a posto, quella visita lì non serve a niente, capito? Perché i muscoli sono a posto, cioè è una visita troppo dolorosa. E tu in pratica l'hai fatto quella lì e poi cosa hai fatto? Nulla, e poi sono andato, ho fatto la, al CUP hanno visto le solite ernie del disco, eccetera eccetera, non si può fa nulla, da lì i muscoli però erano a posto dall'elettromiografia, capito? Perché il muscolo reagisce alla scossa che loro ti danno e vedono da lì se i muscoli sono a posto, capito? E basta, non aggiungo fatto altro. Poi già lo sai cosa ho fatto. Da lì io sono in piedi. E ho fatto solo una volta anni fa la muscoli nel Voltaren, che sono stato bene per un bel po' di tempo comunque. Non puoi stare sempre con questi buntuti, non si può andare, ti devi curare è normale, cazzo no come si univocare questi buntuti. Sì, però un conto le punture le fai magari ogni anno, ogni due anni, e un conto è imbuttiti di bacilli ogni anno che non serve a nulla, a chi non te lo fate passare, Manuel. Almeno quella è naturale, la puntura entra direttamente in contatto non col fegato, capito? Vabbè, pastina non devo più prendere, anche intanto no, è inutile che mi bilio bacino, quella non la sto più prendendo. Sono con bilioni più nulla, non sto prendendo più nulla. Cazzo, io invece pensavo che con quella là in disorgandato mi sembrava che te lo baciava, ma cubato il cazzo. Miracoli non invasi in sciunta, Giudito. Se poi non hai continuato, no, non so cosa dirti. Via, per carità. Comunque tu domani mattina vai dal medico e glielo dici, capito? Quando te ne dà poi sali in farmacia e te li ritiri. Tu puoi uscire di ruga, non ti sento, a volte sì, a volte no. Perché sono in sala. Ti ho detto, andare dal medico domani mattina, farti dare, o domani sera, farti dare quel che ti ho detto io. E poi sali in farmacia e te li ritiri. E adesso vediamo, dai. Cazzo inutile che prendo forse l'inglese al capo mio, che da voi non forse non all'acro. No, non al capo tuo, attenzione, tu domani mattina vai dal medico e glielo dici. E dici, non so, posso fare questo e questa roba qua, invece di stare a prendere sempre pastiglie. Se te le dà, prendile, capito? Che quella è una mano dal cielo, veramente. Lascio che pastiglie so. Sì, ma non hai capito il problema che ho io. Questi anelli qua non è che ti sistemano gli anelli. Queste cose, il cazzo di coso, ti passa il dolore, capito? Però non so se mi fanno camminare bene poi, che non mi si domini anche, è quello che ti sto dicendo. Ma se ti hanno già detto che non puoi operarti comunque, e cosa puoi fare? Allora, o ti dai a letto, fanno fatti i punturi, o ti dai a letto, perché il problema non si può risolvere con quello che hai tu, con quello che ho io, però ti permette di stare bene, capita, cosa ti affutti, fatti coraggio un po' e poi io sono con mago con i punturi. Sì, non mi hai capito, nel senso, allora... Come luci, io cazzo non ce la faccio a camminare, per dire, da qui fino alle poste, cazzo mi devo bruciare che mi si domini anche, proprio per questo problema qua, per questo anello che si sposta nella colonna. Con questi cazzo di punture cosa ti fanno? Ti fanno camminare o ti devi bruciare che non ve la vai? No, quello ti fa passare i dolori, a chi glieli fa passare per 6 mesi, a chi per un anno, a chi per 2-3 anni anche, capito? Non senti più dolore e poi se ti ritorna fra un anno, 2 anni, 6 mesi, le torni a fare, capito? Però cammini bene, non hai dolori e stai bene. Ma vediamo la gassa di dottore. A chi ne giù la balla è bene a Calussi. Tu però non vuoi fare punture, perché hai paura, ma le bacilio se ti credi ti faccio, via. Cazzo, se ti dico quello che mi ha già fatto una bocca, me l'ha fatta chidda. Cazzo, mi ha fatto pini, cazzo, dal dolore. Vedi, perché adesso c'hai il trauma di quella lì, capito? C'hai il trauma di quella. Che ti ha fatto male, magari non sappiamo ancora, si ti ha fatto male, buon chi sente te l'ha fatta. Che se ne abbiamo fatto? Se la infermiera non si abbiamo fatto, se era cosa di os. Baccare dai. Già ci sono infermiere, c'è quella che non la senti e poi chissà che ti fa zibigni pure. A chi c'ha di mezz'ora zicchendi furruggendi, zicchendi la vena, non sa neanche di fare il muscolo. A me me fanno scendere l'altra e coglione quando fanno così, cazzo. Tu fai così domani mattina, vai dal medico e glielo dici. Adesso le devo far vedere quel foglio che mi ha rilasciato il dottore stamattina, quel dottore là. E poi casomai glielo dico. Beh, se no mica ti bastano i dolori a chi ha fatto la visita. Capito? Il dolore ti rimane sempre, sicché l'alternativa efficace sono quelle, le punture, e boh. E a caso visita mi ha fatto, che ha ballato sul dischetto, a caso visita. Boh. Andiamo, vai, andiamo. Cazzo lo grido di Bazzara che guardava le gambe, che... Cazzo nudo, è caduta la scrivania, al computer ha badato un dischetto, l'ha giurato e boh, non ha fatto altro. Adesso appunto nell'elettromiografia con la cosa che ti si addormentano le gambe vedranno appunto, vogliono vedere i muscoli, se è da lì il problema anche. E da poi fate tutta una diagnosi, no, se ne c'è più, Manuel, ma è sempre così. E vabbè, adesso vediamo un po'. E dimagrire mi ha detto, perché il peso schiaccia la colonna, schiaccia la colonna vertebrale e schiaccia col peso questo cavolo di anello che si sposta da una parte all'altra. Sì, sì, sì. E poi dal tuo medico ti fai fare la richiesta per invalidità, capito? Tu ci provi. E beh, per forza io non posso fare più roba pesante, non la posso fare, perché anche è pesante. E io se la devo rifare, capito? La devo rifare e ci metto con il diabete anche in mezzo, e così che. E dovrei arrivare al punteggio tra quello che ho e il diabete. In pratica dovrei riportare quando ti fa il foglio. Vabbè. Io spegno il baracchino, sì. No, ho detto, state facendo casino, stavo dormendo e mi avete svegliato con queste voci. E tu perché dormi col baracchino acceso? avevo lo squelch inserito. Aspetta un attimo, ti. Manuel, lo senti a Tino? Ehi, ciao ti. Ciao Manuel. Non mi dovrebbe sentire, perché? Guarda. No, ti sento bene, ti, non ci sono problemi. Oh, Tino. Ehi, Manuel, c'è Tino presente qua adesso, proprio al caso. Manuele deve fare delle punture, no? Siccome ha avuto un trauma da un'infermiera che probabilmente non era capace, dilli quelle che ti ho fatto io se ti ho fatto lacrimare. Guarda, è male di velluto, credimi. Ma adesso devo fare questo caso di visita, chiamare il CUP. Ho chiamato al CUP e mi hanno detto che per il momento adesso qua a Sassari non c'è nulla per fare queste visite qua. Mi ha detto di chiamare ogni giorno. Guarda, a me Luca quando le faceva, poi mi dava anche un bacino alla chiappa. Cosa ti faceva? Ti disegnava il cuoricino oppure? No, mi dava un bacino, te è passato mi faceva. Ah, lo si è. Sai, insomma. Eravamo in confidenza. Ma boh, io devo uscire dal limite in porto il portatilino, se rimanete in questo canale. Ehi, già siamo quarti. Capito, Manuel. Tino ha fatto lo stesso, voltare nei muscoli insieme. Sì, ma non c'ha l'ernia del disco come c'ho io, è tutta un'altra, dipende dalle patologie che c'ha una persona all'altra, capito Lu? Ho capito, ma è un antidolorifico anche quello, forte, ma non è steso con i zendi. Se non rubruvi però, non ti stai buttiti i bacchini, ma cosa di miracolo. Secondo me meglio delle iniezioni non ce n'è. Poi, certo, non ti tornerà fra sei mesi però, tanto stai bene, capito? C'è gente che non gli è più tornato, c'è gente che l'ha fatta dopo un anno di nuovo, però meglio di ribacchigli, non ti devi buttare a pacchigli, da poi ti passa 15 dì, da poi torna a ribacchigli. Beh, va, vediamo, vediamo. Ma dove siete? Sì, da Olu. Io già ti sento, Manuele non ti sente però, sta uscendo di casa, Manuele. Ah, casa sua, ma stava usando il portatile con l'antenna esterna. Io con mio, il portatile sto usando, però adesso sto uscendo da casa. Sì, non mi ha capito, ma prima che lo sentivo era con la gommina o con l'antenna esterna? Con questa è l'antenna esterna. Allora ti intendo. L'altra è il gommino, stavo provando a vedere col gommino se mi sentivi da casa. Tu prova a vedere. Stavo parlando, aspetta un attimo. No, vabbè, dai, sono dentro casa, dai, quando esco vi chiamo. Non ti sento, ti se stai parlando. Mi ascolti tu a me bene? No, sono con quello di casa adesso, non ti ascolto benissimo, sa, che sono entrato proprio a chiamarti, dai. Ok, vai tu. Oh, io sono veloce, non mi sento, eh. Cosa è ti? Adesso sì. Non ci senti? Cazzo, sei il calo gormo che non si intende la tirozzi. Sono la rottura, sto chiamando. Ma Luca andi è? Boh, oh, lui, avvisi. Sono lì dante pari. Io sono vicino a Alberto, il meccanico, dai. Dove sono l'Intas? No, dove c'è la pasticceria di Mimose? Adesso è il bar di Lode. Eia. Ho capito, io già ti ascolto bene. Stavo ascoltando a vedere se vi sentivo. E beh, se no che pari, non ti dice nulla, che si allontana. Vabbè, dammi 2 minuti, dai, che sto andando al campo. Ehi, a te. Ma non mi senti? Ehi, a te, ti sento. Sono al campo ora. E a voglia, siamo andando a scala, no? Piccolino sempre, che. Ma quale stai usando, te? Il GT3. È buono, come va? Ehi, vabbè, dai, che mi guardo l'allenamento. Volevo vedere se... Sì, a voglia se funziona. Non stai lavorando, te? Oggi no. Adesso mi ambali a dare, va. domani devo andare, vediamo se non piove. Ma domani mi sembra che non ha messo acqua, mi bari, Domani no, ma dopodomani sì. Cioè, sarà inizio, Ani. Va bene, dai, ci sentiamo, già sono qua in X, dai. Ehi, a te, a dopo. Vabbè, lui, quindi sì. Musi, musita. Oh, lui, avvisi. Senti come funge. Senti che musica, ragazza, senti. Ah, me ne vanno che sei di osso. Ma che sei di sopra, non sei di osso. Eh? Che sei di sopra. Vabbè, si chiama scemo, va. Cazzo, mi si sta tremolando tutte le vetre, no? Ma ne fa zero, lì? E qua. Ah, mamma. Oh, yeah. Bebe. 27 non vende nessuno, che più vendi. Vai, 27. Allora, sali galori. Calmalo, cicciotti. Famone. Luca Gargamella. Luca Cusi Biambu. Tetto di ginocchio. Ah, ascolta, se io gioco fa vedere il 23, tu fa vedere i nocchi. Garganella, lasciala. Dove c'è da 23? Sì. C'ho questo acceso, sì, io sto parlando con Cosio, con Manuele, tu fa vedere che cazzo mi fai arrivare. A Gargamella. Allora mi senti a me? Eia. Claudio, ci arrivo lì. Eia, tapponato. Ah, vabbè, sottotirino, consiglio. Anche qua, forte e chiaro. E beh, ti, qualcosa... A te lontano, no, tutti. Tutto a posto. Un mostro sono, no, di faccia. Tutto bene, tutto bene. Non gli ho messo ancora la scheda, ma credo che già vada bene, perché c'è mio figlio. Mezzugai, quando metti le cose buone, le cose funzionano. Va bene, dai, che sto guidando, ma sto andando dal campo. Ehi, ha vinto a vette, ho perso. Ah, ecco perché ti sentivo così forte, sei vicino a me. Comunque oggi non ne ha messo acqua, l'ha messa domani alle 11. Vediamo, perché domani può fare i documenti, secondo come va. No, domani mattina piove lo stesso, e la pioggia forte è venerdì, capito, te l'ho già detto. Domani però inizia. Ho detto vinto o perso a vette. No, allenamento. Kappa, allenamento. Ho letto il telefono, vai tranquillo che già funziona. Quello di mia figlia l'ha rifatto tutto nuovo, pezzi nuovi, originali, ed è come che sia uscito dalla fabbrica. Sì, anche questo, Fla. Anche questo già va bene. Era quello mio da lavoro. Sono ricercato, Fla, per questa cosa, veramente, sono ricercato. Aiuto, vai le mani d'oro, tu, lascia per lì. Non ce n'è a Sassari che fanno queste cose. È peccato che non hai la possibilità di fare pubblicità e di farti conoscere di più, se no vai da Brisciano Laboratorio, perché non è facile lavorare su quelle affari, sono tutti micro cose, cazzo allucinante, capito? L'ho visto tutto smontato io, quello di Laria, mi gioca sul tardo, nuovo me, telefono a 300 euro, capito? Adesso mi ricordo che cos'è. Però gli ha messo tutto nuovo, il display nuovo, tutto. Ilaria è contentissima. Si dà l'ampenne se voleva ricomprare nuovo. Sì, ho ricercato qua, la polizia anche. No, poverino, è ricercato da noi che le rompiamo le balle. Ma io dove dobbiamo parlare, qua o di là? Ma non è qui, sì. Attenzione, testa in ginocchio, adesso gli faccio abbattimento zero, qualche uno. No, io là c'ho l'antenna messa male, qua, la zona giù proprio, va. Rischio di bruciare questo typhoon. Allora a me che sul typhoon già lo posso andare io. Tu ti posso dare un montone sul typhoon. Sono riposato un po', va. Cazzo, l'ho chiamata mamma da Conforama per ritirare la... una cassettina, una, vabbè. Perché qua ce l'abbiamo già, ho già piazzata. Cazzo, anch'io non finita. Ma decidetevi. Cioè, fate perdere tempo alla gente. Boh, teste di cosa, di pugnetta. Cioè, vuoi pugnetta, giochisci. Non mi vedi di più, per carità. Mi manda a ritirarla. Poi, questa è l'ultima volta che mi vedi. Ah, ma ok, andiamo a prendere da ritirarla. Come tuo carro? No, Carletto è in macchina. Sta Carletto, ho solo un giorno se sto a vederlo, gà. Sempre a Portatore si abita. Certo, Cla. Convive. Ascolta, dove sta lavorando? Sempre là. Per il momento è fermo, sta andando a pescare, ma dice che deve entrare a Ambiente Italia. Ah, KK. Se entra lì è eterno, un bel posto quello. Lui c'ha la C, il CQC, come autista, no? È un bel posto, un bel posto. In corsi ci vogliono maledizioni entrare lì. Vabbè, penso che qualche incosto ce l'ha. Ehi, hai visto che ha vinto, Doria? Doria? Tu a Doria hai votato, Cla? No, io la verità non mi sono andato ben nuda, c'ho anni che non vado, intanto non mi sei più nuda a me, ho già dato. Chi se lo si chiama Andrea Doria, chi se lo sai canto Vibone, in una ghetta è già fondato. Dici? Vabbè, comunque... Adesso non lo so, vuoi piazzarmi con l'antenna? Se la piazzare qua, vabbè qua, mi sembra abbia toccato in mamma. Perché poi per qua vediamo cosa fare, là. Ma me ne faccio costruire una da Luca, così la metto lì nel... La metto lì proprio nel terrazzo. Quella là è più una cosa più seria. E poi c'ho un altro portatilino, dai, provvisorio. E me lo uso a casa, la mamma. Ma infatti, quella lì la piazzi bene, come l'ha piazzata l'altra a casa di tua madre. E lì da Marina ti fai fare un'antenna piccolina fatta bene da Luca e la metti nel poggiolo, boh, e si appoggia. Se ti serve il cavo me lo dici, già ne ho 58 io. No, già ne ho, c'ho quel 58 che mi aveva dato Luca, non so quanti metri era, boh, ma penso di averti, che mi basta, Cla. 58 mi pare, quello leggermente più grosso del 58 normale, mi. Sì, c'ho anche io quello lì. Ne avrò 15-20 metri, non so, trovato facendo pulizia, nuovo. Forse l'avevo comprato per fare qualche dipolo e poi non ha giovato. quello umido con la doppia calza e il centrale rigido, è molto buono quello lì, c'è una bella schermatura, va bene. Manuè, ascolta, sono mezz'ora chiamando, vi saluto, ho detto che sto entrando in zona campagna, sennò poi non mi sentite. Va bene, ti salutiamo anche noi, siamo qua, entra dopo. Sì, a dopo, ciao ciao. Ho detto Lu, ma quel telefono perché dandolo stai? Ha detto che lo dovevi dare. Lu, mazza di nevaria, ne ha tanto i pari, gazz, boh. Sì, H, sono andato in freezer a prendermi un ghiacciolo, c'ho un po' di mal di gola. Ghiacciolo? Adesso lo vedo, che vedi, mangi un ghiacciolo? Vabbè, io d'inverno non ne mangio, io sono dei marinassi, tutto l'inverno, cornetti, tutto l'inverno, tutta l'estate e tutto l'inverno. Ho gelato anch'io, c'ho il cornetto, il freezer, c'ho il cammellino, altrimenti. Il subicotto mano a mano, dici mi piace un bel. Ho letto, il Typhoon non lo stavi vendendo? No, ma quello modificato sì. No, mi dicevi modificato, ma mi dicevi uno normale, non modificato. No, questo non lo do, no, no. E qua, e poi cosa metto qua? Cosa pongo, una brittella o una cantarella? Su modificato dei buoni kiwi. No, non piace a nessuno, no, no. Guarda, quello modificato, vabbè, meno male me l'ha messo a posto Fabrizio. Sennò ve la dabbiglia lo che se cui vira a capo, per carità. Ma poi c'è la cosa più brutta, che mi ha detto cambia questi componenti e riprende a funzionare. Cambiatelo e non ha ripreso a niente. Guarda, meno male che Fabrizio me l'ha sistemato, veramente, male. Meno male c'è Fabrizio. Cosa c'entra non piazza nessuno? Ma perché lo devi usare per forza con l'ecco? Cazzo Massimiliano quando entra? Non entra con uno di quelli. A parte vabbè, col 440, con gli altri che ha. Basta chiuderlo e lo usi normale, e va bene. Quando poi ti vuoi spostare nel 45 lo apri, io non lo usavo così. Nel 48 io lo usavo normale. Poi quando volevo andare nel 45, se c'era gente a fare un po' di casino, lo aprivo. Sì, claro, mi piglia la bella nostra con questo baracchino modificato che non lo posso toccare. E allora basta trattarlo mentre deve essere trattato, te ne futta assai. No, il Typhoon stava dando problemi allo Smith, mi sa che si è rimesso a posto. Non lo sta più facendo quel problema, sai che prova se c'è la portante. Fate le prove, buonasera. Siamo qua, siamo tornati alla base. Noi siamo qua, mi eravamo, stiamo facendo un po' da una parte all'altra. Va bene, ascolta Tino, ma tu queste batterie allo yogurt le conosci? Deve essere che sono buone anche, no? In frigo si mettono. Mi ci ha detto Graziano, ci ha comprato la batteria Banamotto allo yogurt. Andare. Hai detto ma non avere confuso con la batteria al titanio? No, allo yogurt. Quelle tengono a scarica lenta sono. Lo Gucciarino chi si chefi? Batteria lo Gucciarino chi si chefi? No! Oh Lu, quelle col cucchiaino sono, no? Eia, eia. Allo yogurt ho mischiato con lo yogurt. Eia, eia. Ma non lo senti a Luca a te? Luca, bella, bella. Frappizzi, lo sento, dai. Scusate che devo mandare un'email, dai, ci sentiamo dopo nel caso, sono in quel Rix. Ma con tutta la roba che vai, non vai, un'antenna per lo BMR, il T. Però, perché questa qua non va bene? Io va bene, ma se non senti a Luca qua io ti sento. Se non sto parlando in BMR, per forza non mi sento. Vedi che ce lo sento. No, a Luca Flipper, a Luca Manicomio. Prova Luca. Ah, che Luca Gagliarella non intendo. Di a... no, yogurt. RM, dai, proprio basso basso. Garganella, non ti sente Tino? Claro, io lo sento bene. Ti sento, ti sento, che dipende dove ti metti, Luca. Sono sempre la stessa posizione. Adesso ti ho sentito bene. Va bene, dai, rimango un X che devo mandare un email. Vuoi dire che la roggio, la lei, che è Luca, la capella. Andiamo, vai, andiamo. Niente. Oh, boh. Luca, lo yogurt. Luca, lo yogurt. Mi è passato Manzano, Graziano, mi è passato. Flipper, esistono o non esistono? Come fa dall'aria, oggi cosa passare? Raga, non è che ha piovuto, vabbè, bisogna che voleva uscire lui. Ma chi? Che cosa ci deve vedere? Quello, ma non è quel coso, quel regolatore a provarlo, se funziona. Se funziona, lo ricompriamo. No, sto 8 non lo ricompro, l'ho visto su eBay, 10 euro costa. Su 35, ma hai visto quanto costa la chita? Sio su Vallo, tu non mi vuoi aiutare, cosa vuoi ti dica? Un potenziometro lui, cosa si dizendo, ma forse la catturetta te la fai tu. Una scatola elettrica, un potenziometro costa un euro, da fusaro. Ma ci vuole il circuitino, se no non regola. Ma che circuitino, in quel circuitino che hai visto, ci sono solo i fili collegati, ingresso e uscita, mi senti che devi fare? Vabbè, quello regola la potenza della luce. No, la potenza la regola il potenziometro. I fili del potenziometro, praticamente tu li devi collegare all'ingresso, capito? E lì hanno fatto il circuitino per collegare i fili dell'ingresso e poi i fili dell'uscita, basta. Non serve a niente quel circuitino, capito? Tu non sai manco di cosa sto parlando io. Quella è la lampadina, boh. Non c'è, quello lì è un potenziometro lui. Poi se c'è una schedina è per la memoria della batteria, eccetera, eccetera. Allora, prima di tutto è una lampada a LED che va messa, buttata dentro l'acqua di notte per prendere i calamari. Con questo regolatore di potenza aumenta o abbassa la luminosità. Ok? Poi ce l'hai visto tu, con la scatoletta c'è questo circuitino, penso l'abbia visto, sicuramente l'hai visto. Sicuramente da lì, perché il potenziometro ti sono cambiati, non fa, non regola, capito? Che pila è? Ah, un cavo lungo, il corrente è boh, vai, 5 metri, 4 metri, boh. La metti a bagno o la lascia a bagno? Per pescare i calamari, capito? E va alimentato con la batteria di macchina. Lui già dalla barca, c'è la batteria della barca. Direttamente dalla barca l'alimenta. Bravo, non è a cosa, non è a batteria. Perciò mi serve, quello lì mi serve a provarlo se va bene. Gli metto l'ingresso, mi regola il blocco, si copre e si cambia. Perché gli serve, capito? Sì. Dovrebbe funzionare, devi solo collegare i fili dell'ingresso e dell'uscita. A meno che non altre regolazioni, capito? Aspetta che mi riguardo quelle foto. Ascolta a me, ma c'è l'ingresso, ci sono segnati i fili più, V meno e V più. Poi ci trovo V meno e V più, giusto? Certo, no, per l'ingresso e l'uscita. Sinistra ingresso, destra uscita. Cioè, sinistra la 220 e l'uscita 12. L'ingresso a 12 e poi vabbè i cavi della lampadina all'uscita. Ho capito, se lo vuoi prestare lo proviamo lui e poi sul compareggio ad esempio se me ne affutti a me. Sì, ma se va bene, vabbè, se può pure comparare, ma questa la scatoletta ce l'hai già, ho visto che ce l'hai già la scatoletta, ti compare giù un potenziometro per forza deve funzionare, perché vuol dire che un altro in quel circuito c'è qualcos'altro che non lo sta facendo funzionare. Ma non penso che tu a potenziometro di dare a 12 volte e si sciogli. Ma cosa si dizendi Lu, se sono fatti apposta questi potenziometri. Quelli hanno messo uno di baracchino, non funziona. Ci vuole il suo, no? Questo qua, aspetta, la sigla di questo. Questo va fino anche a 24 volte lo puoi usare, non ne va di nulla, capito? Oh Lu, sì, a Cla. Ma avete la possibilità di darmi un rapporto qua? Devo fare una prova a due potenze. Dove c'è a fondo scala? Cagare un po' da qua provi, vai. E da te, Lu, sì, beh. Ehi, a... Tu hai la possibilità di darmi un controllo con due potenze, a vedere. Qua c'è fondo scala, a Manuele dovresti chiederlo. Senti, ne ha tanti pari. Ha detto va via Bruciore. Speriamo che vada a Bruciore a culo. Ma io fai, sei da 3 a 5 fai, Claudio. Ma ecco, c'è anche Tino. Ascoltati, quindi questo segnale quant'è? Sul parlato 6,5. Guarda invece con questo potenza quanto è salito o è sempre uguale? Oh, sei salito. Hai fatto da 5 a 7 sul parlato però, Vai, me ne accendi tutti a 7. Quindi così è più alta, perché non mi ricordavo qual era la potenza bassa e la potenza alta. Allora questa è la potenza alta. Sì, quella è la potenza alta quando parli. Quando smetti di parlare che fai un po' di bianco, se ne scende di due tacchette. E non deve farlo. Quello sai cos'è, eh? Antenna grande, ma io già le metto quella piccola. L'antenna grande, la 510, è troppo grande per questa frequenza. Adesso la metto quella più piccola, la 300. Lucifer non lo vasi più. Beh, infatti io sto andando con quella autocostruita, prima avevo l'altra, quella lunga. Non serve a niente, non serve assolutamente a niente. Ci vuole la X30, la X50, massimo la 300. La 510 è troppo grande. Quelle che vanno meglio per questa frequenza sono la X30 e la X50, quelle a un pezzo solo. Quelle sono una cannonata per questa frequenza, perché sono piccole, capito? Quella lunga non va bene. Va bene, riprendo dopo, perché la X ti ho sentito, ti volevo dare il rapporto. Hai fatto bene, grazie mille. Allora la lasciamo così, con la potenza alta, va? Avanti, Lugariello. Volevo dire a Luca, se qualcosa va, me lo vuoi prestare? Facciamo la prova. Se va bene, che regola, ok. Te lo restituisco e lo ordiniamo da eBay, ok? Perché non te io lo uso, se non va bene, non funziona, capito? Mi lascia 50 euro di cauzione. 50, una passata di rangagliuti qui. Se no ti cucchi i calamari, no? E chi pretendo chissà cosa, no? Poi se vuoi in cambio ti faccio dare un po' qualche chilo di calamari, non c'è problema. Aspetta, sto guardando, dovrei averne un altro di quelli qui. Controlla, dai. Perché se vabbè, quando vas a pigliarlo, sono qua a piedi pure. Dovrei uscire prima. Se no mi prendo la 25 da casa vicino a casa tua, la sarebbe in via Pascoli. Magari dopo, quando vado via. E quell'altro che ho io in sala, non ti va bene? Hai visto quasi il troboscopico burro, sai come ti vanno i calamari? E qual è? Ma il faletto? Che si ci buone a vada pure mio Luca. Quel circuito che ho. Ah, vabbè, boh. Tu, a me, qua, quello lì che mi hai fatto vedere tu, che l'ho trovato su eBay, uguale. Se mi dai quello, proviamo quello. Ciao Gianni, e beh, tutto a posto. La TV funzionando sta già? Fila! Sì, già sta funzionando. Salvo il culo a tutti io. Stracco barato, vero ca? Ho capito con chi stai parlando perché non sento nessuno. Televisione, quale televisione? La mia? La mia la funziona benissimo. No, a Gianni sto dicendo che c'era un problema al televisore, l'abbiamo risolto. Gianni doppio numero, non lo senti? Non arriva qua, no, non arriva. Non arrivi Bannuda, boh, non ho capito perché arrivano tutti da Teroce, arrivi tu, arriva Tino col portatile, non arrivi, boh, ora lo portatile che non scevi. Non lo so, Claudio. Già, lo senti a Claudio? Non lo so, stava parlando con Luca, ma io non lo sento. Ciao Gianni, sì, io lo ascolto basso, mi apre lo squelch, spero già riesco ad ascoltarlo e a capirlo, dai. Sì. Ah, pensavo eri in macchina. No, se ti ho detto vi saluto, cioè che poi non mi sentite più che ero in macchina. Ah, ok, comunque mi ascolti, dai, basso non mi ascolti, anche io ti ascolto un po' flusciato. Vabbè, dai, a dopo, sono ancora qua con col PC acceso. E si conferma. Ciao Gianni, ciao. Già, tutto finito. Ah, ok, da. Ande. Mughetti. Ma dov'è Gianni, Luca? Già, dove sei? Arriva benissimo qua, Gianni. Arriva a fondo scala. Vabbè, forse la zona anche, da. Se vuoi questa frequenza un po' stupida. Sì, un po' stupida, giuro, Beh, se siete vicini. Però qua io da lui arrivo perché passo dall'alto verso il basso, ma lui a salire qua non ce la fa. Tu lo occupi già, sì? Ah, basso, ti ascolta a basso, Cla. Se mi ascolta a basso è un problema suo, non è un problema mio, no? Vabbè, dove va? Purtroppo. Via. Bello casino. Allora, Lu, come rimaniamo d'accordo? Carga me. Ah, in via, Luca. Ci metti che indrubbizza a me. Infatti l'ha detto di controllare a vedere. Luca, la camella! Ma io già vanno e ma gioca. Se terra ne è bagnata, che non viene più, c'è più la piccata. Sì, c'è peccato, ma non è peccatore. Però. cavolo, ce n'è da fare di strada a piedi, però sicuro le fai. Ah, io se vado in terrazzo ci sono già, Stavo facendo la nanna. Lu, io me le ho già mangiate, quelle che ho fatto il giorno che te l'ho detto. Le ho mangiate sabato praticamente. Buone, veramente buone. Sì, Cla. No, ancora non le ho fatte. Sì, già ne ho, no, non ne ho molte, tanto per noi, dai. Però ci devo riandare. Appena finisco il tutto, questi lavori che devo fare, io devo consegnare due telefoni. E poi ho l'impegno del cane, dai. Devo portare il cane a fare il vaccino, tutte queste cose. Lo devo portare via, ecco, la signora. Sennò male se lo vende. Ma ce l'ha dato, no? No, qua ce l'ha lei. Prendito, adesso è già a tempo, non ho più figato. Ho capito. E ho visto lui. Ma a me non mi serve questo, lasciamo vedere, vediamo. A me questo qua, ecco, piccolino, L'ingresso. C'è la cosa dicevi lui? L'ho appena detto prima, qua mi serve un potenziometro per regolare la luminosità di una LED che va. Beh, te l'ha detto Luca, un potenziometro e buh. E poi te la regoli dal potenziometro, la abbassi e la sollevi. Io l'ho messo alla velocità della ventola dell'alimentatore, quello della Dynamo nuovo, l'ho comprato a 60 ampere. Bellissimo. Un patrimonio Goethe, 220 euro di alimentatore, ma alimentatore però serio, no Proxeno, Diamond. E praticamente gli ho messo il potenziometro dietro dove c'è la ventolina, perché era un bel veloce, e gliel'ho messo al minimo, la posso mettere da zero alla velocità massima, capito? Una scatoletta, un buchettino, puoi entrare i cavi dentro, ovvio, e usiamo quella scatoletta là anche, chi se ne frega. Si mette a testa in su, si fa il collegamento, si fa tutto, va bene, solo più o meno, solo che è leggermente più grande. E quanto è la scatoletta su? Adesso lo mando l'alimentatore lui, si vede poco perché io gli alimentatori ce li ho a parte, non c'è molta luce lì, però è una bella bestia quello, una bella bestiolina. Che cosa ho capito? L'alimentatore della Diamond. L'alimentatore della Diamond da 50 ampere, da 60 ampere. Mi te lo sto mandando. Ora già si vede la scritta della Diamond. È a fianco a quello della Proxel. Però li va di rugulo all'issue della Proxel. Questo è professionale davvero. 220 euro costa. Ma switching? Sì, sempre switching. Allora, switching, ma switching però, no... switching di chi si cinese, no? Diamond, vedi c'è la scritta, molto bella, è un bel grande, un bel lungo, infatti è dalla parte della finestra dove c'è il basamento per gli alimentatori, ce ne sono tre, c'è quello della Proxel grande da 50 ampere, quello da 60 e l'altro da 35, se no non riesco a alimentare niente, capito? Ma la foto non è bugata da WhatsApp, là. A Filippo non è bugata. L'ho tolta, non ne ho altre foto da mettere. Intanto cosa c'è la foto? Non c'è nulla. C'avevo la foto di Filippo, ho messo quella, adesso non ne ho altre. Quando faccio qualche altra foto bella la metto, capito? Cla, come si dice? Metti una foto di una radio, giusto per... è brutto così, se sarà un'immagine WhatsApp. Non agio, posso poni una foto di Padre Pio. Poni a Padre Pio, basta che metti una... come si chiama? Un'immagine. E adesso metto il nominativo come ci avevo prima, aspetta. Luca la gamella. Ma... quella è... e tu sai? Te ne ha mandato uno, l'hai visto anche quello, anzi, quello è due, te ne danno addirittura a quel prezzo. Lui, io devo fare la prova, che te l'ho detto. Se me lo presti, proviamo quello che va bene. Mi segni, me lo segni solo l'ingresso, mai, come un pennarello. E poi il resto andiamo a raggiungere. Se funziona, io te lo posso comprare a nuovo e ti prendi l'altro che arriva. Sì, uguale. Sì, l'altro non l'hai trovato. Ne ho uno, però è un circuito, non ha la scatola. Era un circuito che avevo comprato per la loop magnetica, per il rotore avanti e indietro. Paolo. Però funziona anche come regolatore, perché c'è il potenziometro per appunto regolare la velocità della sintonia del loop che avevo fatto, capito? Ma a me serve quello che c'è tu. Ma un paleraccio oggi, Luca. Cosa? Un paleraccio oggi, la massa delle varie, le date pari. Fine, ti chiamo tu pure Claudio, di Firo. Sto chiamando, c'è il parido, è di a Luca. E sto qua, è il 23, già vedi, non vi ha nessuno. E voi date noghi. Perché noi siamo qua uomini. Per carità, voi volete sovrare anche le parole in frequenza con voi. Lo so, e cos'è voi, che ti faccia? Lascio cosa devo fare, lascio ancora un po' modulare, cacchi roba antenna. Ma tu mi hai sentito l'ecca? No, ragazzi, ma chi è che non c'è l'antenna? Che fa lei fare TVI? Non bisogna farne TVI, no? Ma con questo non è fare TVI, pure si vuole attaccare dall'antenna della televisione. Lu, cos'è questa cosa che mi hai mandato? Quello che ti stavo dicendo, quello lì fa sia dal regolatore di velocità che avanti e indietro, capito? Destra o sinistra. E questi pomelli, questi lì qua sono lampadine rossa e blu, cos'è? No, quello rosso e blu sono per, te l'ho detto, mi serviva per la loop magnetica che avevo fatto, per fare girare la sintonia, capito? Quando... Ma quelli lì, praticamente, se vedi, c'è una mossettiera, capito? In quella mossettiera si attacca l'ingresso e l'uscita. E poi tramite il potenziometro regoli la intensità. Dunque, con questo qua posso regolare l'intensità? Con questo potenziometro puoi regolare l'intensità, sì. Ma tu gira. Dammi quello lì, allora, Lu. Poi mi dice, ma tocco, quanto l'hai pagato, te lo posso pagare. No, non è proprio, pensate che funzioni. Lo metto in quella scatola che c'ha lui e via. Attenta, guffetta. È pagato là. Guffetta tre ruote con la batteria allo yacht. Sai, pensavo quasi tenne quelle bistecchine di asinello. Beh, i cammini si sono fessi. La prossima settimana. Va bene. Le zampette di anguilla. Grazie a croccati croccante. Ne vuoi? Ad un euro il chilo. No, qua mi piacciono quelle di rana. Ma che non mi sono riuscito. Infatti se lo agitelli. Non è buono in moto un Mercedes oggi, grazie. No, oggi no, non avevo gana. Devi infatti, mi devi avvicinare a Luca, sta male. Devi andare a burare un capo. Tu male, se non avevo gana. Andare un capo. Ma vicino da lui. Ma quella lì ti fa scaldare il candeletto, lo siete Graziano? Sì, Graziano arriva forte qua, ciao Graziano. Ma Claudio, ben sentito anche a te. Io a casa adesso mi stavo guardando la TV. Il mare della Spusti, un sacco bello. Ho visto anche spiagge dove sono stato io, nel Cagliaritano, in Ogliastra, da quella parte lì. Bello, bello. Quello tu lo sai? Non ti ho visto anche la costa, tutta la costa orientale. Io me la ci fatta tutta io. Tutta in giro la Sardegna me l'ho fatta io. Tutte le coste. E anche all'interno dei paesini sperduti, montagna. Bello, bello. Anche in ieri, grazie. No, quando facevo l'autista che viaggiavo, ho girata tutta in la Sardegna. Tutta, sia all'interno che all'esterno. Tutta. Da sopra a sotto. Ma in tutta hai girato in coso, in pantaloncini? No, va via, non navio. Sì, Rudi, in via 12, pure con 4, pure con 2 Rudi ha girato il moto. Vido, carie, ho messo la scritta, bene va. Andiamo via. Già va bene. e oggi non se ne compra niente. Quando esce il sole di grima, di canto brucia. Boh, e sì, a sorso. Ma Luca ga, Luca Flipper. No, a Luca Manicomio, Luca Flipper, che lo so che è in punta lì, nel palazzone suo. Ah, così este. E allora, yeah. E tu dove sei? Non sei in campagna? No, e allora, a Pigliaeva, a casa. E dovevamo andare sabato e domenica, ma se piove non ci va. Siamo andati l'altro giorno, abbiamo fatto sabato e domenica. No, se non fa bella giornata non ci vado. Partenza a Nado Trento, metto il ginocchio. Vabbè, ma in campagna, quando piove io, noi mi rimaniamo a Trento casa. Noi ci a Roma stessa mi ne andate a fare ciocca, cupriccio, in giro, nelle campagne, recuperate, poi incontravo gente che conoscevo, noi mi sentivo a Trento casa chi la più venne. No, grazie. Non so com'è la tua campagna, ma questa non è una campagna, è abitata, sono più di 150 metri quadri di casa, sotto e sopra, e non è una campagna per andare a fare ciocca, per andare a fare i puntini, è abitata, capito? Ci abita una figlia con il ragazzo, in fianco c'è altra gente, tutto, quindi no, non agita in giro bannuda ahí. Lì si va perché c'è tutto, c'è anche la piscina, figura. Si è passato dentro gas, è passato tre mesi da favola, proprio. Capito? Però se quando sta piovendo devi stare dentro e non puoi sfruttare quello che hai, me ne sto qua, capito? Dovevo andare io e mia moglie, sabato e domenica. Però no, se piove non ci vado, se fa bella giornata già ci vado. Ehi, vabbè, è bello anche l'inverno a scendere in campagna. Anche questo periodo è bellissimo. Io ci ho vissuto parecchio in campagna. Però facevo sempre la staffetta, Salivo e scendevo, capito? Ma pure se dormia che già non passava a casa, salivo lo stesso. Poi la scuola andava al lavoro, a casa e poi scendevo in campagna, capito? Grazie, io sto cercando di trasferirmi. Io ho già più di un anno la casa in vendita e la voglio a regalo. Per regalarla non la regalo. Se vendo questa, allora mi trasferisco definitivamente e non ce ne va da più, capito? Perché è tutta arredata, è abitabile, eccetera, la parte mia. Però non fa, capito? Non fa, qua c'ho altre cose, tutte le radio, altre cose, poi che faccio, eccetera, quindi o mi trasferisco definitivamente, non a Giulietta Landa e Torre, capito? Anche perché non è a due passi, quindi non posso stare andando e tornando, capito mia? È una bellissima zona, bella, bella, bella veramente, c'è tutto e di più, però o mi trasferisco definitivamente insieme ai mogli residitivi, o se no, pazienza. Io gli ho detto chiudiamo tutto, stacco la corrente, chiudo l'acqua e ce ne andiamo. No, così non va bene. E allora arrangia, ti rimane di noghi. Vabbè, non è che anche a mia moglie è già arrabbiata in campagna, però a rimanerci fissa no, no, non gli va, anche se è tutto abitato. Da noi giù ci sono un sacco di abitazioni, un sacco di gente che conosce, però a rimanere fissa proprio no, si è andata così, a cambiare un poco da voi, ma non se ne vuoi tornare a casa. Oh, io sono con me stessi, non è che mi geni assai, compreso, però già è bello. È bello sì, perché io da lì andavo a Predaniere, dall'Eurospin, a fare la spesa ci metto 5 minuti meno di qua, capito? C'è la farmacia lì scendendo, c'è Columbano, il bar, il tabacchino, edicola, è tutto, non manca niente, assolutamente, però bisogna decidersi, trasferirsi e boh, capito? Tutto qua. lì c'è anche il telefono, oh Grazia, c'è linea telefonica, infatti c'è, abbiamo messo proprio la fibra, quindi c'è tutto, c'è luce, acqua, telefono, tutto quello che ti serve. Come che sei qua? C'ho un giardino grande per il cane, per i cani, non ve ne giuro, si sta benissimo, non è un problema, è abitabile al 200%, non al 100%, cancello elettrico, viale tutto illuminato, diciamo che è una villa in campagna, vai, per farti capire, però...